Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa Idee anticrisi. Metti insieme un fondo speciale, una struttura per la promozione e l'internazionalizzazione che ti catapulti all'estero, un voucher di cofinanziamento che ti aiuti coi fondi, iniziative di crowdfunding, attrazione di capitali, sensibilizzazione di tutti i cittadini, l'ecosistema ideale per le nuove idee e imprese. Milano si è candidata a capitale delle startup con un documento, una carta, firmato pochi mesi fa dall'assessorato alle politiche per il lavoro, sviluppo economico, università e ricerca e dalla Camera di Commercio, frutto del lavoro di un team di 10 esperti del mondo dell'innovazione per dare linfa alle startup milanesi, più di 27.000, più di un terzo costituite da giovani di meno di 35 anni, e per far crescerne altre, anche con i fatti concreti come il fondo dei fondi di circa 20 milioni l'anno per il territorio milanese. Considerando un periodo di investimento di 5 anni, la taglia totale del fondo sarebbe di 100 milioni, senza dimenticare alcuni buchi nel sistema, la carenza di capitali a livello nazionale, il costo alto degli affitti, una maggiore semplificazione. Ecco le due startup di peso che hanno aderito alla carta. Techinnova è la capostipite di tutte le startup che Riccardo Roggeri ha inventato. Dopo aver trascorso alcuni anni come ricercatore, ha dedicato la sua carriera allo sviluppo di nuove imprese, assistendo più di 90 aziende, soprattutto in settori quali information technology, biotecnologie, nuovi materiali, settore dei servizi, energia e ambiente. Nella raccolta di fondi, stesura di business plan, progettazione di strategie, di approccio al mercato, ha dato il suo contributo alla nascita di 17 spin-off universitari e ora è nel CDA di 6 PMI operative in vari settori. Ha conseguito un master di europrogettazione ed è iscritto al registro europeo degli europrogettisti. Riccardo Roggeri dirige anche la sezione di lavoro di Techinnova dedicata alla difesa della proprietà intellettuale e alla redazione di domande di finanza agevolata che coinvolgono il nuovo programma europeo Horizon 2020. Sentiamo tutti i dettagli. Allora, è nata l'idea nel 2005. Tornavo da un viaggio negli Stati Uniti dove ho preso tutta una serie di tecnologie per quanto riguarda la nascita delle startup. Al tempo la parola startup in Italia era ancora una cosa abbastanza innovativa. L'idea è stata quella di partire da quello che era il mondo universitario, che a mio avviso è ricchissimo di opportunità, andare a cogliere quelli che erano i progetti più interessanti e cercare di dargli una mano per fare spin-off universitari e startup innovative. L'idea è stata quella di favorire la nascita di queste aziende fornendo una serie di servizi che potessero essere a basso costo e ad alto valore aggiunto. La problematica è che la maggior parte delle startup oggi in Italia ha un periodo critico nei primi 18 mesi, in cui deve affrontare una serie di investimenti e ha la problematica di flusso di cassa. Cerchiamo di dare un discorso di filiera a tutte le aziende, fornendo loro tutti quelli che sono i servizi che servono appunto per la startup. Cioè dal business plan alla sede di lavoro? Sì, esattamente. E poi forniamo servizi che vanno dal commercialista alla finanza agevolata, alla redazione di business plan, la ricerca di investitori e tutto quello che può essere la parte comunicazione, informatica, eccetera. Ecco, questo è importante perché fondamentalmente seguite le startup dalla A alla Z. Poi parleremo di costi e modello di business, ma intanto vogliamo sapere, voi che aiutate le startup, chi vi ha aiutato? Ci siamo aiutati da soli. Per quanto riguarda la parte economica, da soli. Poi siamo entrati in tutta una serie di reti, che è quello che è il concetto base che ci serve, che ci hanno aiutato dal punto di vista logistico di creare opportunità. Per esempio siamo entrati grazie a Sono Lombardo in Startup Town, che è un progetto molto interessante che ci permette di avere una visione più completa a livello regionale ma anche a livello nazionale di quelle che sono le opportunità. Quindi anche altre occasioni, per esempio con la Camera di Commercio di Milano, ci hanno permesso poi di venire a conoscenza di tutta una serie di altri soggetti che a tutt'oggi ci danno una mano sia per far nascere nuove startup che per supportare quelle che sono nate. E il modello di business qual è? Che cosa pagano? Che tipo di ovviamente servizi hanno? E ovviamente non sono, neanche loro partono con grandi capitali, come avete fatto? Il modello di business è basato su cercare di offrire questi servizi a un costo veramente basso, spesso che si avvicina o addirittura zero, perché in alcuni casi crediamo nelle startup che accogliamo e ci investiamo in maniera diretta. I costi possono andare dai 350 euro per una scrivania attrezzata avanzata e una serie di servizi che possono essere quelli, per esempio, di avere la sala riunioni, avere tutta la segreteria, avere tutta la parte logistica e i software base per poter fare la parte di gestione, fino ai 1200 euro se uno vuole invece un suo ufficio con due scrivanie e poter iniziare l'attività in maniera più strutturata. Per il resto poi aiutiamo queste startup trovando dei finanziamenti pubblici che gli permettono di fare tutta la fase, appunto, di nascita e sviluppo, e a un certo punto, diciamo dal 18° mese in poi, se le cose cominciano a funzionare bene, cerchiamo di trovargli anche degli investitori che prima con dei fondi di seed, poi con investimenti più importanti, facciano sviluppare l'azienda. Ecco, importante è anche la tua competenza, nel senso che per essere startupare, aiutare gli altri startupari, bisogna avere delle competenze. Allora, che cos'è questo registro europeo degli europrogettisti, che può essere anche utile, diciamo, per chi vuole anche affacciarsi a, diciamo, mercato del continente europeo? È un albo che è aperto solo a chi ha conseguito un master in europrogettazione, ha fatto un esame per entrare in questo albo, e permette a questi giovani, la maggior parte sono sotto i 35 anni, di avere le competenze per scrivere i progetti di Horizon 2020 e di tutti quelli che sono i bandi europei correlati. Ecco, Horizon 2020 è un'opportunità importante, puoi spiegarla appunto a chi ci segue? Sì, assolutamente. È il programma europeo che ha sostituito il 7° programma quadro, va dal 2014 al 2020, permette sia alle aziende singole, quindi anche alle start-up, di avere dei finanziamenti a fondo perduto per la ricerca e lo sviluppo, sia per le aziende che invece non sono più start-up. La cosa fondamentale è che Horizon 2020 ha introdotto anche queste misure che si chiamano SME, Small Medium Enterprises, che sono accessibili dalle singole aziende, non più come per il 7° programma quadro e per i programmi precedenti, avere la necessità di avere tre soggetti di tre nazioni diverse. Per quanto riguarda i tempi di Horizon 2020, quali sono e soprattutto quanto costa il vostro servizio per arrivare a domanda? Allora, i tempi per la valutazione, tenendo conto che sono valutazioni in due step, il primo step sono 60 giorni, il secondo step sono 120 giorni, quindi nell'arco di 6 mesi una SAS è stata finanziata, dopodiché deve iniziare tutta la fase di rendicontazione. Per quanto riguarda i costi, noi suggeriamo di partecipare a quelle che sono le azioni della Regione Lombardia, quei voucher specifici per Horizon, che permettono di avere dietro un costo di realizzazione di 6.000 euro, la Regione ne ridà 4 e quindi all'imprenditore costa solo 2.000 euro. Dopodiché, una volta che il bando viene vinto, per tutti i due o tre anni successivi di progetto, noi seguiamo la parte di rendicontazione e questo praticamente ha un costo del 5% di quello che è stato finanziato a fondo perduto. Check Bonus è un'app per smartphone, www.checkbonus.it, che incentiva l'affluenza di utenti nei punti vendita attraverso il meccanismo della raccolta punti. Gli utenti guadagnano punti quando entrano nei negozi convenzionati. I punti danno accesso a un catalogo di premi che include coupon, deals, gift cards e prodotti omaggio. Alle aziende partner, soprattutto nel settore retail, offre invece una piattaforma di marketing che incentiva l'affluenza di potenziali clienti negli stores. Ci spiega questo win-win, cioè questo vantaggio a due facce per clienti e aziende, il fondatore dell'app, Pierluigi Casolari. L'idea di Check Bonus è nata un anno fa da me e Yuri Ceskin, che siamo i due cofondatori. Sostanzialmente il problema che ci siamo posti è come fare ad aumentare l'affluenza di persone nei punti vendita. Questo perché si parla tanto di e-commerce e le vendite online crescono, ma gran parte dell'attività commerciale è ancora offline, che è un settore che sta soffrendo particolarmente in questo momento. Check Bonus è un'applicazione per smartphone che funziona come una sorta di carta fedeltà. Tu scarichi l'applicazione, vedi i negozi che sono convenzionati con noi. Quando entri nei negozi basta accendere l'applicazione per guadagnare punti. Quindi, rispetto alla classica carta fedeltà, ci sono due differenze fondamentali. La prima è che non c'è bisogno di una carta, e la seconda è che viene premiata non soltanto l'attività di acquisto, ma anche l'esperienza dentro il punto vendita. Quindi io esco di casa, vado in un negozio, vado in un centro commerciale, un department store, questa attività viene premiata da Check Bonus. Quindi in realtà sono delle promozioni. E se acquisto? Se acquisti, diciamo in realtà aumenti i punti, ce ne sono di più. In questo momento stiamo sviluppando proprio questa parte sulla, diciamo, sulla parte di acquisto. E per questa cosa stiamo utilizzando una tecnologia nuova che si chiama tecnologia iBeacon, come la chiama Apple, o Bluetooth Low Energy, come invece viene chiamato dagli altri software e sistemi operativi, che consente di localizzare una persona esattamente quando è all'interno di uno spazio chiuso, di uno spazio indoor. Vogliamo capire però appunto come avete fatto a crescere voi invece esponenzialmente e chi vi ha aiutato nel vostro percorso, perché insomma dall'idea alla realizzazione passa, diciamo, del tempo e dell'impegno. La società è nata nel luglio del 2013, quindi siamo circa a un anno di vita. Siamo cresciuti in questo periodo grazie a un gruppo di business angel che hanno fatto un primo investimento su di noi. Poi diciamo la rete, diciamo, che si è creata intorno alle startup in questo periodo è molto vivace, quindi abbiamo partecipato a diversi programmi di accelerazione, facendo rete insieme a varie realtà, da Asso Lombarda, che diciamo siamo entrati in questo programma di Milano Capitale delle Startup, che banca che attualmente ci ha inserito in un programma di accelerazione di startup fintech che stiamo partecipando proprio in questo momento. Siamo vicini alla chiusura di un altro investimento con, diciamo, un altro gruppo di angel, e quindi diciamo varie cose che permettono poi di crescere, di fare dei passi evolutivi. Ecco, i soldi, non solo i soldi, ma anche il fatto di scambi di informazioni. Quindi è importante anche entrare in un networking, ma è importante anche vendere. E qui veniamo al modello di business: da che cosa guadagnate e soprattutto che cosa fate pagare. Beh, noi sostanzialmente siamo per l'utente finale un sistema di accumulo di promozioni, mentre per i nostri clienti sono le catene retail, alle quali ci proponiamo come una piattaforma di marketing. Siamo Check Bonus, porta traffico, porta persone, porta acquisti e quindi porta valore nei negozi al retail, e il retail riconosce a Check Bonus una percentuale di quel valore generato. Quindi numeri alla mano, siete un moltiplicatore di business. L'idea è quella, sì, assolutamente. E ora occhio a Milano, capitale delle startup. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre, Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza, un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci di Piccola Impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.